24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Buongiorno. Con l'accordo tra la Fiat e la Chrysler siglato la settimana scorsa è entrata nella storia questa fusione. Sergio Marchionne e John Elkann hanno realizzato il sogno dell'avvocato Gianni Agnelli, che oggi ricordiamo a pochi giorni dall'anniversario della sua morte. Giovanni Agnelli, detto Gianni, per tutti l'avvocato, torinese sposato con due figli. A 13 anni è rimandato in tutte le materie per cattiva condotta, ma a 17 prende la maturità classica. A 24 anni il nonno gli affida la Fiat, ma lui sceglie Vittorio Valletta, cui succede nel 66. Per 35 anni è sindaco di Villar Perosa. In guerra è stato sul fronte russo e in Tunisia, poi a fianco degli alleati. Ha avuto una caviglia spezzata e una croce di guerra al valor militare. In Italia è il simbolo del capitalismo moderno. Intelligente, avvertito, ricco di fiuto e di fortuna, secondo Fortebraccio. Un uomo solo, secondo Biagi. L'ultimo imperatore, secondo Time. Un uomo del Rinascimento, secondo Newsweek. Un avvoltoio, secondo il Manifesto. Dieta al prosciutto, 4 Chesterfield senza filtro al giorno, champagne preferito, Philippe Bonnat. È l'uomo d'affari più elegante del mondo. Dicono che questo è lo stile Agnelli. Avvocato, lei qualche anno fa è stato soprannominato l'avvocato di panna montata. Ecco, la prese come? Dovrei essere non breve in questo caso. Mi lasci venire all'occasione. Questo era un articolo di Scalfari di circa 10 anni fa. Era il periodo in cui la Fiat era entrata nel Corriere della Sera e uscita un anno dopo. Eravamo entrati in posizione interlocutoria per passare da un'editrice pura a quello che allora si chiamava un editore puro. Scalfari si seccò di questo, voleva che io rimanessi socio di Rizzoli, ricordo, socio di Rizzoli, e concludeva il suo articolo dicendo: Agnelli è infinitamente più simpatico, ma è fatto di meringhe e di panna montata. Qua ci vuole un uomo con il sedere di pietra. L'uomo con il sedere di pietra è Eugenio Cefis. Questi erano i termini. Vi lascio vedere la lungimiranza di Scalfa. Beh, però anche la Malfa l'ha chiamato una volta l'avvocato Agnello. E mi pare che anche il suo amministratore delegato Cesare Romiti, qui a Mixer, ha detto che lui è molto, molto, ma molto più cattivo di lei. Mi sembra che quindi comunque ci sia un elemento ricorrente in questo giudizio. Vede, la Malfa lo conoscevo benissimo. È l'uomo politico a cui sono stato più vicino dall'immediato dopoguerra, praticamente durante tutta la sua vita. Ed escludo nel modo più assoluto che la Malfa possa avere fatto un gioco di parole di questo genere. Non era intenzionale. Non era nella sua natura, non era nel suo stile. Potrebbe essere un gioco di parole, diciamo, da Dorotei, ma non da un uomo come la Malfa. E Romiti, che si considera molto, molto più cattivo di lei? Beh, vedi, Romiti è responsabile dell'esecutivo. Uno che è responsabile dell'esecutivo deve essere un uomo che sa fare la faccia feroce, presentare la faccia feroce. Il ruolo mio è un ruolo piuttosto di mediazione. Ecco, ma perché l'ha scelto così cattivo questo amministratore? Intanto, delegato? Quando Romiti dice io sono molto, ma molto, ma molto più cattivo, io gli rispondo lui è molto, ma molto, ma molto meno cattivo di quello che crede. Primo punto. Poi dopo io non l'ho scelto perché è cattivo, l'ho scelto per delle ragioni professionali. Senta, avvocato, comunque di panna montata o no, lei dice di no, il potere ce l'ha da sempre e da 20 anni è il leader indiscusso degli industriali italiani. Ecco, che cosa le piace di più del potere? Quello che direi che è grave è avere responsabilità senza potere. Io non sono un assetato di potere, mi piace quel tanto di potere per poter assolvere i lavori che devo compiere. E la cosa che le piace di meno? La cosa che mi piace di meno del potere è l'immagine che uno possa volerlo o amarlo. Senta, esercitare il potere comunque significa anche dover continuamente giudicare rapidamente e scegliere le persone. Lei di che cosa si fida? Come lo fa? D'istinto oppure come? Va bene, una persona è quello che fa, quindi giudica una persona da quello che ha fatto e da quello che fa. Poi quello che deve giudicare da questo è il potenziale di quello che può fare in futuro. Sul potenziale di quello che può fare in futuro c'è evidentemente una certa percentuale di intuizione. Prevale l'elemento razionale, ci sono dei momenti in cui l'intuizione gioca la sua parte. Ecco, ma qual è l'errore più clamoroso che ha fatto nella scelta di una persona, appunto? Questo ne ho fatti più di uno, ma non vorrei dirle quali perché riguarda terze persone, non le voglio toccare. Senta, avvocato, lei ha avuto tutto.

che possa continuare a far bene un mestiere e l'altro a lungo. Ma secondo lei oggi si può governare in Italia senza una qualche forma di consenso del PC? Ma vede, nelle democrazie occidentali, cioè nelle democrazie a cui noi apparteniamo, quando uno ha la maggioranza non si è mai preoccupato dell'opposizione. Cioè si deve governare non curandosi delle opposizioni. Senta, parliamo di cose un pochino più frivole, avvocato. Lei e l'ama comunque una cosa in comune l'avrete sempre, che è la Juventus. L'ama qui a Mixer ha detto che il più grande giocatore della Juventus di tutti i tempi è stato Mumo Orsi. Lei è d'accordo? No? È stato un grandissimo giocatore. Ma per lei qual è il più grande? Mi dà un mezzo minuto di tempo. Dunque, l'ama ha l'età mia, quindi lui si ricorda Orsi dal 30 al 35 quando giocava in Italia. Lui aveva da 10 a 15 anni come avevo io allora. Era la squadra di mio padre quella. Vinse 5 campionati di fila la Juventus. Orsi era nella rappresentativa del 34 quando 5 uomini della Juventus vinsero già allora i campionati del mondo per l'Italia, come adesso 6 uomini della Juventus li hanno vinti in Spagna. E Orsi, questa è una storia che racconto solo per l'anno, Orsi giocava a Palermo, fine campionato, campione del mondo, e c'era un terzino del Palermo che lo picchiava, gli correva, gli saltava addosso da tutte le parti. Orsi gli ha chiesto: quanto guadagni? Quello disse: allora 600 lire. Orsi ne guadagnava 9.000. Se senti, te le do io e non mi scocciare, tanto non sai giocare. Questa non so se piace, ma quelli mi chiedeva quali ma sono i giocatori lei, che no, per lei qual è il per lei, me, guarda, io più gliene, grande della gliene dico due, Parola e Boniperti. Senta, e Platini? Platini adesso viene da un momento di tale successo che non voglio parlarne bene. Senta, ma di calcio ci capisce più lei o Boniperti? Senta, lui ha giocato e per capire bene il calcio, il parere di quelli che hanno giocato, e capiscono, è certamente vale di più di quelli che non hanno giocato. Quindi senza dubbio lui. Sì, però lei ha anche detto, quando Boniperti non segue i miei consigli fa delle sciocchezze. Ma questa è un'altra cosa, delle sciocchezze ne ha fatte come? Delle sciocchezze ne ha fatte come? Quali sono ma le questo ultime? Lo dicevo, guardi, per due ragioni. Una, perché voglio confortare, non so, i presidenti di altre squadre, Pontello e Viola, e fargli pensare che anche Boniperti fa delle sciocchezze. Qualcuna me la dice, l'ultima. Non è l'ultima, perché non voglio gliene dico una divertente una storica. E clamorosa. Una divertente e clamorosa. Siamo ai campionati del mondo di 6 anni fa in Argentina. Io ricordo, telefono a Boniperti, gli dico: Boniperti, mi hanno segnalato un giovane che ha delle doti eccezionali, ti prego di farlo guardare. Boniperti dice: avvocato, lei ce n'ha sempre una nuova. Dico: si chiama Maradona. Ho detto: questo nome che sembra una bestemmia, non mi stia a scocciare. Dico: Boniperti, guarda che deve essere qualcuno. Risposta di Boniperti: se fosse qualcuno lo saprei. Beh, questa volta si è sbagliato, ma è vero che lui si è comprato Boni e che lei Platini si è comprato quasi di nascosto? No, Platini, io non comprerei mai di nessuno di nascosto a Boniperti. Platini ci aveva il suo consenso e soprattutto l'ha comprato per un pezzo di pane. Avvocato, ma lei perché ce l'ha tanto con Boniek? No, non ce l'ho con Boniek. Boniek è un grandissimo giocatore e ha le caratteristiche del suo paese. Le caratteristiche del suo paese sono quelle, si diceva all'inizio della guerra, dice, solo i polacchi e i finlandesi hanno caricato a cavallo i carri armati tedeschi, ma i polacchi credevano di vincere. Questa è la natura di Boniek. Senta, ma chi è oggi il più grande calciatore del mondo? L'ha detto prima forse. Ma secondo me è Maradona, però Platini è vicino. E lo vedremo in Coppa dei Campioni l'anno prossimo nella Juventus? Nella Juventus no. Non c'è speranza. Conto, speriamo di sì. Senta, ma lei la domenica che cosa fa dopo la partita? Glielo chiedo perché si parla molto del fatto che il suo problema è vincere la noia, è vero? No, non ha fatto. Nel mio mestiere, come in tutti i mestieri, probabilmente anche nel suo, c'è una percentuale di cose noiose. Quando io faccio le cose noiose, mi annoio e la gente se ne accorge, ma fa parte del mio mestiere e le devo fare. Sì. Poi ce ne sono tante affascinanti, tante avvincenti e tante che mi piacciono. Senta, la televisione la guarda? Sì, la televisione la guardo sempre per le notizie. Sono i programmi che segue, quelli che gli piacciono di più sono le notizie. No, le notizie, se mi segnalano qualche cosa, lo vedete. No? Senta, a proposito di televisione, come mai il gruppo Fiat IFI, che ha fatto investimenti in tutti i generi, sempre di più in questi ultimi periodi, non ha investito nel settore televisivo? Ma le dirò che ci abbiamo pensato. Ma perché in un certo senso fanno parte accessoria del lavoro dei mass media, della stampa, della fabbrica editori, però l'investimento

dovrà succedervi qualcuno che ha il senso della Fiat, che vuol dire il senso di quei valori in cui la Fiat è stata fatta. Chi mi succederà dovrà accompagnare la Fiat al centenario, alla fine verso la fine del secolo, e si troverà a guidare un'impresa formidabile, dei collaboratori eccellenti, e ritengo non avrà una vita facile. Ma un nome? No, no, non sta, non posso farle un nome io oggi. Mix 24 800 24 00 24, il numero verde 349 238 6666, l'SMS. Che cosa bolle in pentola oggi, Mario Sechi? Buongiorno. Beh, bollono delle cose politiche, però forse magari c'è qualcuno che fa toc toc alla porta adesso. Stefano Fassina, buongiorno. Buongiorno a voi. Lei, dimettendosi, ha detto: l'obiettivo di Renzi è Letta, non sono io. Cioè? Cioè, ho posto un problema di ambiguità della posizione della segreteria del Partito Democratico rispetto al governo Letta, che è il governo presieduto da chi fino a pochi mesi fa era il vice segretario del Partito Democratico. Certo, ecco, quindi lei col suo gesto, per dirla semplicemente, vuole rendere esplicito lo scontro fra Renzi e Letta, così, che no, si chiariscano. No, io vorrei che ci fosse un chiarimento definitivo, perché, come ho detto in questi giorni, non solo è legittimo, ma è doveroso che un segretario che è stato eletto con una così larga partecipazione, con una così larga maggioranza, chieda una svolta nell'iniziativa del governo. Certo. Altro è la caricatura distruttiva quotidiana che ricorda appunto il Berlusconi con gli ultimi mesi del governo Monti. Il problema è che Letta e Renzi fanno parte dello stesso partito e l'Italia non può permettersi una guerra di logoramento tra il PD e il governo. Quindi le mie dimissioni auspico che servano a un chiarimento per andare avanti convinti con una svolta nel governo, sì, come chiede il segretario del partito. Ecco, quindi per dirla semplice, il governo Letta per Renzi è diventato quello che si chiamava all'epoca dei democristiani un governo amico, cioè un governo morente che si voleva far fuori, si chiamava governo amico. Più o meno siamo lì, diciamo. Io spero di no, spero di no. Dopodiché vedo rappresentata l'attività, il PD non può dividersi tra chi si assume la responsabilità di mettere la faccia su un governo che è oggettivamente difficile, perché il governo Letta non è il governo di centrosinistra che certo volevamo, che no, è un certo governo che no. Non possiamo dividerci tra chi, come il sottoscritto, come i ministri, come il Presidente del Consiglio, ci mette la faccia, fa le mediazioni, e chi insulta ogni giorno, dice che il governo fa solo marchette e fa, come dire, duro e puro, preparando una pre-campagna elettorale. Ecco, cioè, ma secondo lei, onorevole Fassina, allora, Renzi vuole un governo nuovo guidato da lui oppure vuole la certezza di andare alle elezioni a maggio? Ma guardi, la domanda dovrebbe essere posta a Renzi. No, ma secondo lei? Secondo me c'è un'ambiguità che va sciolta. Vedo un atteggiamento che non è utile al PD, che non è utile al governo e soprattutto non è utile all'Italia. Non stiamo parlando di giochini interni, stiamo parlando del governo di un paese che è in drammatiche emergenze economiche e sociali. Quindi il mio gesto, un po' disperato se volete, è fatto con sacrificio, perché non l'ho fatto con leggerezza, ha l'obiettivo di un'assunzione collettiva di responsabilità. Perché, ripeto, quindi o tutti, o sì al governo e rimpasto, oppure andiamo alle elezioni, ma chiariamoci, poi non è questione di manuale Cencelli per il rimpasto, no, certo, ma non è quello il punto che pongo. È Renzi giustamente, doverosamente chiede una svolta, perché ha avuto un mandato ampio dagli elettori che l'hanno votato al congresso, si spenda anche con alcuni uomini e alcune donne. E quindi questo si chiama rimpasto, diciamo, tradotto giornalisticamente. Si chiama rafforzamento, dare coerenza. Coerenza ai propri obiettivi. Però anche lei non è mai stato d'accordo fino in fondo col governo delle Langhe intese, e Renzi neppure. Su questo siete d'accordo, tutto sommato? infatti è stata una fatica per il sottoscritto, certo, come è stato per altri ministri, una fatica morale e politica stare in un governo che non era il governo che volevamo. Infatti lei si era già anche dimesso. Dopodiché sì, siamo un partito, io stavo al governo in quanto espressione del Partito Democratico che ha fatto una scelta di responsabilità. Se il segretario del mio partito mi insulta quando pongo il problema politico di capire la posizione del PD sul governo, mi tiro indietro, perché c'è una questione di dignità personale e politica che viene prima di tutto, e non si può abusare del senso di responsabilità delle persone. Ecco, lei però, come lei in un certo senso, Renzi dice che per fare sviluppo bisogna ottenere dall'Europa di sfondare il tetto del 3%, ma lì non siete sulla stessa linea tutto sommato? No, guardi, non è questione di 3%, io ho insistito in questi anni che c'è un problema sistemico, non c'è un problema di economie cosiddette periferiche, mediterranee, i famosi pigs che vanno male e tutto il resto va bene, c'è un problema sistemico, l'Europa, l'Unione Europea, l'Eurozona è su una rotta mercantilista che è insostenibile per tutti. Il debito pubblico medio nell'Eurozona è passato dal 65% del 2008 al 95%. Ma il problema del 3, il problema del tetto del 3% per fare sviluppo, per l'appunto, c'è o no secondo lei? Ma non è un problema dell'Italia. No, problema, certo, dell'Europa, dell'Europa. È un problema ma non è tanto quello. Penso che ci vogliano euro bonds per finanziare investimenti produttivi a livello europeo, che ci voglia una golden rule, quindi non è un problema di 3%, ma il problema è se si riescono a fare investimenti, ci vuole un'unione bancaria efficace. Purtroppo a fine dicembre il vertice a Bruxelles ci consegna un risultato assolutamente inadeguato. Senta, ma sulla centralità del lavoro però lei e Renzi siete allineati, mi pare. Ma sulla centralità del lavoro tutti sono allineati, ecco. Chi è che dice che non va bene aumentare il lavoro e combattere la disoccupazione? Senta, bisogna vedere come? Salario minimo garantito, lei è d'accordo? No, salario minimo, dobbiamo metterci d'accordo sulle parole. Io sono d'accordo che ci sia un salario orario minimo, cioè che chi lavora debba percepire una remunerazione oraria che non possa essere inferiore a un certo livello. Questo certamente, certo, abbiamo una situazione oramai di sfruttamento con persone che lavorano per 3 euro l'ora, spesso persone giovani qualificati. Senta, quindi, ministro, onorevole Fassina, scusi, ma l'ex ministro Saccomandi, l'ex suo ministro Saccomandi, dice che nel 2014 caleranno le tasse, lei ci crede? Ma ci sono le condizioni per poter raggiungere questo obiettivo, ovviamente dipende molto da quello che succede intorno a noi, ma quindi è possibile, lei pensa che sia possibile? Penso che sia possibile, penso che sia possibile, dipende appunto quello che facciamo, dipende dal quadro politico, perché non c'è dubbio che noi riusciamo ad avere un risparmio in termini di spese per interessi rispetto a quelli che sono scritti nella legge di stabilità se permane la condizione. Insomma, le condizioni ci sono, ma lei, per chiudere, un governo Renzi subito, lo vede possibile? Vedo ora una difficoltà ad andare alle elezioni senza una legge elettorale votata dal Parlamento, dopodiché un governo Renzi... No, ma subito. Subito mi pare complicato, certo, dal punto di vista del quadro parlamentare, dopodiché il punto è dare all'Italia un governo efficace. Il governo Letta, se opportunamente sostenuto, anche incalzato dal Partito Democratico, può dare le risposte di cui il Paese ha bisogno. Ma lei farà il capo dell'opposizione interna, come dicono i renziani? Ma guardi, i renziani sono in difficoltà, io ho posto un problema politico di rapporto tra PD e governo, il resto per quanto mi riguarda è secondario, certamente non andrò a casa, continuerò a dare il mio contributo dalla Camera, partito, e lavorerò per una rifondazione culturale e politica del Partito Democratico, perché credo che ve ne sia bisogno. Onorevole Fassina, l'ultimissima cosa, per chiudere, Fassina chi certamente è stata una battuta infelice e anche offensiva. Anche lei però non scherza quando dice che l'unica cosa certa di Renzi è la sua data di nascita. Non è un complimento, insomma, al segretario del partito. Siamo 1-1, palla al centro. No, guardi, la mia battuta si riferiva a mesi fa, quando c'era la campagna congressuale, subivo altre battute. Adesso è diverso. Adesso adesso io da quando Renzi ha vinto con un grande risultato, un netto risultato, l'ho riconosciuto, non ho fatto più battute. Il problema non è la battuta, guardi, non è che me la son presa per la battuta, me la son presa per il messaggio politico chiaro, sì, che quella battuta conteneva. Senta, c'è Mario Sì che vuol fare una domanda al volo. Sì, buongiorno Fassina. No, mi ha colpito molto il paragone che hai fatto sulla parallelo Berlusconi-Monti, cioè il logoramento che poi subì il governo tecnico. Cioè il rischio è questo alla fine? Vedo questo rischio, sì, perché quando vedo rappresentata l'iniziativa del governo come una sequela di marchette, no, mentre legittimamente si possono mettere in evidenza errori che spesso anche hanno origine parlamentare, ma il segretario del partito che esprime il Presidente del Consiglio dovrebbe riconoscere anche i risultati positivi che ci sono nella legge di stabilità. Certo, certo. Un'ultima domanda di Pietrangelo Buttafuoco, che siamo in chiusura. Buongiorno Fassino, una domanda banale. Fino a che punto secondo lei Renzi e Berlusconi sono alleati per far cadere Letta? No, non voglio credere a questi scenari. Credo che l'obiettivo di Renzi sia quello di avere una risposta efficace. Deve chiarire ambiguità che vi sono e vanno sciolte. Però è capo dell'opposizione a questo punto, Renzi, al governo Letta. No, io mi ostino a pensare che vi possa essere un patto trasparente per rispondere alle emergenze del paese attraverso il governo Letta. Grazie onorevole Fassina, buon lavoro. Mix 24. Sono tutte ciacole, sì, sì. Cose che si dicono, ma sì, tutti convenevoli che non si usano più. Forza, forza, hai ragione, commuoversi è vano, basta solo una stretta di mano. Ma mi sento spuntare una lacrima appena mi specchio negli occhi tuoi. Sarà che... Allora, Pietrangelo, questo salamino? Più si diventa veci, più si fa come i fiol. È un grande Lelio Luttazzi con Sylvie Vartan. In questo inizio d'anno fa duopo, uso una locuzione del principe De Curtis, perché appunto dopo un anno siamo sempre più vecchi e sempre più pronti a delle lacrime di dolce malinconia. Non è possibile. Ma sì, anche sì. Nel 2014. Cioè, pensavamo che fosse cambiato. Ma perché con Lelio Luttazzi non vi trovate bene? Questa grande pagina della musica, dello swing italiano. Guarda, avevi finito l'anno. Se no comincio, ti butto addosso un colpo di Wagner. No. Niente cavalcate delle Valchirie. Ma chi va e non va in televisione? Per il cavaliere, chi è che va in televisione? Chi non va? Chi non va per il... Ah, sì, c'è una lista nera. C'è una lista nera. Ieri c'era un bellissimo articolo di Balzac, che come sapete si firma con lo pseudonimo di Carmelo Papa, su Repubblica, e dice che c'è tutto un elenco di persone che non possono andare, e oggi su La Repubblica Laura Ravetto, che era indicata tra le persone che non possono andare più in TV, giustamente fa un'accusa precisa. In Forza Italia c'è chi vuole le gatte morte in TV. E io, a beneficio degli ascoltatori, vorrei ricordare un frammento che resta nella memoria, l'unica che è riuscita a mettere sugli attenti la prosopopea di Crozza. Ascoltate. Madonna la Ravetto. Ma che bella, che Ravetto è in te. Guarda la Ravetto. Sì, ma gran bella non donna, mi fa ridere, molto... Crozza. Non mi fa proprio ridere. E in effetti quello resto zitto dopo. Peggio che a Sanremo. E le bolle, Mario? Allora, oggi? Vabbè, aspetta, c'è solo una cosa da... Enrico dalla Grecia, che dice: l'avvocato Agnelli è stato il più grande uomo italiano. Ci seguono in Grecia. Bravo Enrico. Certamente è stato tra i più significativi. Posso dire una cosa? Sì. Io sono fermo al telegramma che il Presidente del Consiglio ha detto al capo della polizia, quando disse: fate sapere al senatore Agnelli che nell'Italia di oggi è la macchina a servizio dell'operaio e non l'operaio a servizio della macchina. Ma quello era il nonno. E quello era un altro presidente del consiglio. Allora, sulle bolle, qua suona una campana, ma in realtà la facciamo risuonare. Perché vorrei agganciarmi al Fassina, perché lì c'è una cosa interessante, un rumor di palazzo che riportano le mie fonti e quelle di altri colleghi. Insomma, la storia è questa. Potrebbe anche esserci una crisi di governo nei primi due o tre mesi dell'anno. Ma attenzione, non è detto che si arrivi alle elezioni, perché Giorgio Napolitano ha una carta molto forte. Qual è? È quella di dare l'incarico proprio a Renzi. Come dicevamo Fassina. Con Fassina, che sarebbe anche, diciamo, una soluzione coerente con i problemi posti da alcuni dentro il PD. Bisognerebbe che Letta si dimettesse. Beh, sai, se nel PD non chiariscono questa situazione, prima o poi il governo implode per disconnessione tra il partito e l'esecutivo. E quindi siamo al governo amico, che diventa sempre più nemico. Però, ripeto, questa è una delle soluzioni possibili ed è molto accreditata da fonti autorevoli. Dopodiché la campanella può suonare. Sei misterioso, eh? Allora, va bene. Fonti autorevoli, misterioso. Non si rivelano mai le fonti. Va bene. Allora, no, e abbiamo il nuovo capo della Fed che è stato nominato, Janet Yellen, come sapete tutti. Comincia ufficialmente il primo febbraio. I mercati cercano un orientamento per il 2014. Non sarà anche questo un anno facile. Anche i risparmiatori. Una curiosità, segnalo l'Università della California, che ha fatto uno studio sui ricoveri per disordini mentali durante le crisi finanziarie, aumentano considerevolmente. Senti, quindi, ma insomma, tu a proposito di soldi, ci credi alla riduzione delle tasse nel 2014, come dice Sacco Magni? Anche Fassina è stato un po' ambiguo, un po' simponoso. No, teoricamente le condizioni ci sono, però... Le condizioni ci sono, perché lo spread è diminuito moltissimo. Quindi potrebbero diminuire le tasse. Quindi significa che paghiamo meno interessi. Parliamo di una vagonata di miliardi di euro, molto probabilmente. Sì. Bisogna vedere se contemporaneamente si fa un ciclo virtuoso della spesa, perché però la spesa aumenta di fatto. Ma no, scusami, il debito pure. Non stanno facendo un prelievo sulle pensioni adesso? Allora, quella è un'altra bolla. Cottarelli sta studiando una rimodulazione degli assegni. Segnalo che domani si discutono alla Camera un paio di mozioni congiunte alla fine su un possibile prelievo straordinario sulle cosiddette pensioni d'oro. Il rischio però che le pensioni d'oro si abbassino fino, per cui alla fine pagano il limite delle pensioni d'oro sia la pensione di tutti. Pagano pensioni della middle class, della cosiddetta classe media, che in realtà sono ancora oggi, diciamo, una sorta di paracadute per una certa quota di consumi. Bisogna stare molto attenti con queste cose, perché con la demagogia si rischia poi di colpire persone che hanno fatto il loro dovere durante tutta la loro esistenza. Quindi occhio. E che hanno pagato fior di soldi, quindi io non me la sento di fare di appoggiare queste operazioni di questo tipo. Quindi la risposta a Pietrangelo è speriamo di no. Io spero di no, spero di no, perché alla fine so già come va a finire, che tanto colpiscono... non siamo pensionati, dici tu. Ma noi manco ci arriviamo, se per quello, ma insomma, questo è possibile. Sentiamo la Volpe. Regola numero uno: prendere i soldi dalle tasche del tuo cliente e metterli nelle tue. Ma se ne fai entrare un po' anche nelle tasche del tuo cliente, è meglio per tutti, giusto? No. Oh, The Wolf of Wall Street, Leonardo DiCaprio, un film sulla finanza, esce a fine mese per introdurre che cosa? Un po' di risultati di borsa. Noi teniamo sempre d'occhio i titani. La cosa importante di stamattina è che l'ultimo trimestre di Samsung non è buono. È una sorpresa, perché gli analisti pensavano invece che fosse una cosa che avesse risultati positivi. Fa meno 18%, tutti si chiedono un po' perché. Sì. Ci sono condizioni strutturali, però è interessante la concorrenza nel mondo degli smartphone, dei telefonini, perché quelli a basso costo cinesi si stanno facendo sentire, e in più viene segnalato il fatto che potrebbe esserci un ulteriore calo dovuto al fatto che l'iPhone di Apple verrà venduto in Cina grazie all'accordo con China Mobile. Sono tutte cose importanti, perché segnalano dei trend globali che ci riguardano molto da vicino. Perché? Perché l'economia è tutta connessa. Per esempio, non lo so, petrolio e carbone? Putin ride. Perché? vedo buttafuoco sorridere, no, alza il ditino cosa, in nome dell'impero, l'ho già capito. Che Putin intanto ha detto la cosa giusta, cioè? Ha detto che in tutte le vicende del Medio Oriente c'è il gioco sporco dei sauditi. Per la prima volta un capo, un leader di una potenza, qual è la Russia, ha indicato un responsabile nella situazione veramente Medio Oriente. Gheddafi questo lo faceva abitualmente, e infatti lo fecero finire male. Gheddafi, mi sembra un po' che difficile che possano fare il servizietto Gheddafi a Putin. Però non lo vedo possibile. Insomma, però l'inno russo è la felicità di Putin, perché sono usciti in fine 2013 le proiezioni sul mercato energetico del 2014, proiettate addirittura fino al 2035 in alcuni report. Intanto chiariamo una cosa: petrolio e carbone non sono al momento sostituibili da nessuna energia alternativa, perché qua altrimenti si alimentano le utopie. La domanda di petrolio continuerà ad essere molto forte in tutto il mondo, comunque a crescere nonostante la crisi e la recessione. La Cina sarà il primo consumatore di petrolio e gli Stati Uniti si avviano ad essere il primo produttore. Questa è una rivoluzione, no? Che ha raccontato anche Scaroni, lo shale gas. Il gas, l'autonomia energetica degli Stati Uniti che cambia anche le prospettive dell'industrializzazione negli Stati Uniti. I prezzi del petrolio saranno stabili per un lungo periodo, intorno ai $110 al barile, molto volatili invece i prezzi del gas nelle previsioni. Bond. E il carbone è ancora importante. Bond. Grazie. James Bond. Perché Bond? Oh, il taxi, il black cab londinese prodotto dalla Nissan. Non c'è più religione. Non c'è religione. Beh, è un po' come il kebab che ha sostituito il Brustel in Germania. Dopo il giornale radio torna Mix 24 con la storia a cura di Marina Milone. Oggi racconteremo la storia di Leonardo Sciascia, un ritratto di un siciliano inedito fatto da amici, personalità che lo hanno conosciuto. In chiusura un'intervista con Francesco Merlo. La notizia in 3D era come sempre curata da Sara Tardelli.